importuno parti. Vedesti? Aspira l'impresa che di farne felici. Già sono e busco scesa. L'anime presto, amor. Vicina al porto già sei giunta.